buonasera a tutte, a tutti e a tutto e bentornati su Radio Lotto Tutto l'Anno, la radio pirata di Non Una Di Meno Milano. Come sempre il venerdì, quando veniamo introdotte da una musica particolare, suona il campanello e quindi sì, anche questa sera parliamo di internazionalismo e vi portiamo in giro per il mondo. E stasera con me, io sono Marta, ciao a tutti, ci sono Vale, Benny e Laura. Ciao, ciao, ciao a tutto. Ciao. Allora, per cominciare, se siete d'accordo, facciamo, come dire, gli onori di casa e le comunicazioni di servizio come sempre, e poi magari invece entriamo un pochino più nel merito del tema della serata, presentiamo decorosamente Laura e cominciamo a chiacchierare un po'. Quindi, per cominciare, noi ci teniamo sempre a ricordare prima di tutto che la nostra vorremmo fosse una radio partecipata e che quindi potete scriverci e mandarci i vostri contributi, lo potete fare alla nostra mail che è nonunadimenomilano@gmail.com. Da una settimana circa lo potete fare anche attraverso il gruppo pubblico Telegram della diretta, che si chiama appunto diretta Radio Lotto Tutto l'Anno, lo trovate cercandolo su Telegram o sui nostri canali dove abbiamo postato il link e dove potete mandare i vostri contributi audio, scriverci e noi vi leggiamo in tempo reale. E poi vi ricordiamo che tutti i contenuti della radio sono scaricabili in podcast dal nostro blog, che è nonunadimenomilanoblog.wordpress.com, che abbiamo un canale Telegram, nonunadimenomilano, e niente, che ci potete trovare su tutti i nostri canali social, che sono tutti più o meno nonunadimeno, nonunadimeno.milano, insomma, abbiamo fede, ci troverete. Oltre ai nostri di contatti, oltre a questo giretto autoreferenziale, ci teniamo sempre, ogni volta che andiamo in diretta, a ricordare dei numeri utili. Prima di tutto siamo entrati nella fase 2, ma esattamente come nella fase 1, forse peggio, sappiamo perfettamente che la violenza maschile contro le donne e la violenza di genere non si fermano. E per questo ci teniamo sempre a ricordare prima di tutto il numero nazionale contro la violenza, che è il 1522, ma anche e soprattutto i contatti dei centri antiviolenza della rete DIRE, la rete Donne e Rete contro la Violenza. Su Milano i centri che fanno parte della rete sono la Casa delle Donne Maltrattate, i Cerchi d'Acqua, e potete trovare la Casa delle Donne Maltrattate chiamandolo 02 55 01 55 19. Sempre in tema di comunicazione di servizi e numeri utili, ci teniamo sempre anche a ricordare i numeri e i contatti di Obiezione Respinta, un progetto nato in seno a Non Una Di Meno e che riguarda soprattutto la tutela della salute sessuale e riproduttiva. Le compagne di Obiezione Respinta hanno attivato un canale Telegram che si chiama SOS Aborto Covid-19, che diffonde informazioni in tempo praticamente reale su l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, e le trovate ovviamente anche su Facebook e su Instagram, Obiezione Respinta o I Vigili Aborti Ti Sto Benissimo. E infine è attivo anche un numero di telefono 24 ore su 24 che fornisce informazioni e assistenza, e il numero è 331 96 34 899. Ultima comunicazione di servizio in ordine temporale, che però vi facciamo sentire dalla voce diretta delle nostre compagne di Non Una Di Meno Milano. Non Una Di Meno Milano ha attivato un numero di telefono per, come dire, non restare sole durante questa pandemia, e niente, ascoltiamo tutte le indicazioni dal vocale. Ti stai rompendo? Rompi l'isolamento con noi. Chiamaci al 324-0909-917 tutti i martedì dalle 17 alle 19 o scrivici alla mail raccontiamocela@chiocciolaautistiche.org. Lascia il tuo telefono, ti richiameremo il martedì. Siamo non una di meno, non un servizio specialistico. Vogliamo evitare di perdere il senso di comunità o lasciare qualcuna da sola. Raccontiamocela, parliamo anche spagnolo, portoghese, inglese e francese. Eccoci, siamo tornate. Ora possiamo entrare nel merito della puntata, direi. Entriamo nel merito e chi la presenta, Laura? Benny, la vuoi presentare tu o la presento io? Vuoi? Va bene. Chi vuole? Marta, la presento io? Vai, Vale, che io parlo più troppo. Va bene, la nostra amica, compagna e sorella, Laura. Laura ha fatto un sacco di cose ed è qui con noi oggi perché ha contribuito a fondare il CISDA, che è il Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane. Che il CISDA è una piccola associazione molto attiva, lavorano da molti anni, dal 1999, collaborano con altre associazioni e ONG di donne in, afghane e sostengono i loro progetti umanitari e politici. Tra le altre cose, Laura è andata da molti anni in Afghanistan, poi ci parlerà anche lei della sua esperienza, ha aiutato a organizzare viaggi in Afghanistan, in Pakistan, e ha accompagnato varie delegazioni. Non finisce qui perché è anche una delle fondatrici della Casa delle Donne di Milano e un'attiva compagna della rete GIN di Milano. Quindi ciao Laura, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi per avermi invitata e per aver avuto voglia di parlare dell'Afghanistan, che è un tema ormai dimenticato dai più. Vediamo che hai dimenticato, ma che anche in questi giorni diciamo che la situazione è sempre molto, sì, molto grave. Sì, la situazione è sempre molto grave, ma diciamo non ha mai smesso di essere grave, purtroppo. L'Afghanistan è in guerra da 40 anni e le donne in Afghanistan non hanno mai avuto diritto di parola o comunque sono sempre state iper oppresse dal fondamentalismo, dalla società tribale e iperpatriarcale, e quindi insomma con loro abbiamo fatto un percorso straordinario, loro hanno fatto un percorso straordinario, ma credo che comunque si debba continuare a sostenerle e a stargli al fianco, perché sono delle compagne che non possono, a mio avviso, ma credo ad avviso di chiunque conosca il loro lavoro, essere lasciate sole. Bene, grazie Laura, intanto anche da parte mia, da parte di tutte noi, per essere qui con noi e per portarci la tua esperienza. Ora, se siete d'accordo, io manderei un pezzo di musica, poi torniamo in diretta e cominciamo appunto a entrare un pochino più davvero nel merito dell'Afghanistan, della sua storia, ma anche, come dire, delle resistenze, delle resilienze che sono in corso tuttora. Va bene, dai, ci ascoltiamo un po' di musica. La musica, come sempre in queste occasioni, è a cura di Benny, che poi magari ci racconta anche qualcosa rispetto ai pezzi scelti. E niente, torniamo in diretta tra pochissimo. بیدرمان نیست قصه و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تلخ لحظه راحت و دستکین یا بی صدای من صدای تو صدای افغانستان می رویم به سمت سرنوش می رویم به سمت سو درد من درد تو یک درد بدرمان نیست قصه و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تر لحظه راحت و دستکین یا بی Yeah, man, sad, oh, yeah, too. Giù. Eccoci. Allora, rieccoci qui appunto a parlare dell'Afghanistan. Io non so bene che abbiamo sentito un canto rocchettaro, credo, Sì, giusto? esatto. Kabul Dreams, confermo. Tra l'altro consigliata da Laura, perché le scelte della musica, insomma, trovare delle cose non è sempre così semplice. E quindi, insomma, così, visto che mi ha lanciato la palla sulla scelta musicale. Detto questo, io farei una breve introduzione, perché parlare di Afghanistan è sempre molto, molto complicato, perché ha una storia ricca di eventi, la maggior parte dei quali estremamente tragici, e che vive, appunto, come diceva Laura prima, una guerra in stato di guerra da circa 40 anni. È una guerra che comincia questa, e in realtà c'è questa, quella del 79, si comincia nel 79, quando la Russia invia un grande contingente per sostenere il governo di stampo comunista e per cercare di sedare tutta una serie di proteste che si sono, appunto, che divampano nel paese, soprattutto a stampo islamista. Nell'80 comincia la jihad contro la Russia e appunto, questa jihad è sostenuta sostenuta dal Pakistan e dagli Stati Uniti, e che, insomma, dà il via all'ultima battaglia della Guerra Fredda. Nel 92 i jihadisti vincono, riprendono, scacciano i russi e per tutta una serie di ragioni che adesso sono un po' più complesse da spiegare, nel 95 i talebani entrano un nuovo gruppo, che insomma, semi nuovo gruppo, e comincia una grossa offensiva in tutto il paese. E i talebani in questo contesto ereditano il sostegno pakistano del Pakistan e degli Stati Uniti. Nel 99, io vado abbastanza veloce, ma nel 99 si comincia a parlare di Osama Bin Laden e dei suoi campi di addestramento in Afghanistan, dove comunque forma tutta la fila di Al-Qaeda, appunto in questi campi. Nel 2001 si cambia completamente scenario, succedono l'attacco alle Torri Gemelle, credo che insomma tutti noi conosciamo quello che è successo, e comincia l'invasione. Il 7 ottobre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan ed è un'occupazione, un'invasione che diventa un'occupazione che dura tuttora e tutt'oggi. Sono 19 anni che di fatto gli Stati Uniti con 40 altre nazioni con cui formano la coalizione ISAF, diciamo, di cui fa parte anche l'Italia, con intensità diverse, con diciamo, impegni diversi, occupano di fatto il paese. Ed è un disastro, è stato un disastro dal punto di vista militare, dal punto di vista politico, un disastro appunto che ha costato la vita a centinaia di migliaia di persone che si sono ritrovate schiacciate in questa guerra sostanzialmente senza senso. Già Barack Obama, il presidente americano, aveva cercato di capire come levarsi dal pantano afghano, e solo con l'arrivo di Donald Trump cominciano veramente a mettersi in moto delle cose, tra cui un'apertura dei tavoli con i talebani. Questo è stato, diciamo così, il grande cambiamento della politica estera-americana per quel che riguarda l'Afghanistan, perché fino a appunto il 2018, fino al 2018, con i talebani non si trattava, per ovvie ragioni, ma soprattutto è stato appunto questo, diciamo così, leitmotiv della politica estera-americana. Adesso, ad oggi, in teoria si sarebbe firmato una sorta di trattato di pace che è stato subito, diciamo, rotto da parte dei talebani, il futuro è ancora molto incerto. Forse tutti non sanno che uno studio del Pentagono ha calcolato ultimamente, l'anno scorso, che per un ritiro totale delle forze americane ci verrebbero almeno 9 anni, ed è un dato che mi ha abbastanza scioccato, perché questo veramente ti fa capire anche come gli eserciti americani si muovono in giro per il mondo. Gli americani sempre hanno speso 7 trilioni di dollari in Afghanistan, molto di più del piano Marshall subito dopo la seconda guerra mondiale, ed è tuttora, tutt'oggi, uno dei paesi più poveri al mondo, dove non ci sono infrastrutture. Poi anche Laura, no, ci racconterà che cosa vuol dire stare in Afghanistan, dove non c'è assolutamente niente, e dove comunque le donne, come si diceva prima, sono veramente in una condizione che non possono essere lasciate sole. L'87% delle donne in Afghanistan ha subito violenza, e solo il 18% è andata a scuola. In questo contesto ovviamente la lotta delle donne è molto complicata, anche perché gli americani, tra le varie contraddizioni e le prese in giro al popolo afghano, avevano appunto issato la bandiera di voler aiutare le donne, e in questi 19 anni hanno fatto solo disastri. Quindi insomma una dei gruppi, anzi il gruppo insomma è più importante, possiamo dire più importante, Laura, non lo so, credo proprio di sì. Più importante per le donne rivoluzionarie in Afghanistan è appunto Rawa. Ci racconti un po', Laura, di Rawa? Sì, allora, Rawa è l'associazione rivoluzionaria delle donne afghane. Sono femministe, sono laiche, sono tuttora clandestine nel loro paese perché sono state considerate un pericolo, insomma, per la stabilità dell'Afghanistan, e sono state accusate delle peggio cose, e quindi loro girano sotto falso nome. Se vengono in Europa o in Occidente usano un falso nome per presentarsi durante gli incontri. Voglio dire, sono esattamente il contrario di quello che uno si immagina possa essere una donna afghana, perché le immagini sui media sono state, no? Le hanno mostrate sempre solo sotto un burqa, sempre solo miserabili, sempre solo. Oppure o hanno presentato questo tipo di donna, che purtroppo esiste, oppure hanno presentato le donne rampanti legate ai gruppi di signori della guerra, usate soprattutto dal governo, dai due governi che sono succeduti in Afghanistan in questi anni, ma anche dall'Occidente, per far vedere quanti progressi erano stati fatti con le donne afghane, e quindi hanno fatto credere. Inizialmente l'invasione dell'Afghanistan era stata dichiarata, diciamo, si doveva andare in Afghanistan per liberare le donne, e quindi era necessario mostrare quanto le donne avessero fatto, quanti progressi avessero fatto le donne, quindi donne nelle ONG, donne nel governo, donne nel Parlamento. Il grosso di queste donne sono legate, quando le mostrano così belle, istruite, eccetera, eccetera, sono legate ai signori della guerra, sono legate ai fondamentalisti. Rawa nasce nel 77, nel 1999 loro cercano, periodo di talebani, periodo in cui dell'Afghanistan non si parlava più, perché, come dire, una volta cacciati l'armata sovietica, per il mondo occidentale tutto era andato a posto, loro decidono di cercare sostegno in Occidente, e quindi vanno trovando tutte le associazioni, le realtà femminili che operano anche in Italia. Trovano noi, che non eravamo il CISDA ovviamente, ma il gruppo del CISDA è formato da una serie di donne eterogenee che facevano parte di diverse realtà. Vengono invitate a una marcia della pace Perugia-Assisi, e cominciano a raccontare quello che sta succedendo in Afghanistan. Le rinvitiamo per dei giri di conferenze, e quando nel 2001 gli americani dicono bisogna andare in Afghanistan perché dobbiamo vendicare i morti delle Torri Gemelle, noi proprio in quel momento decidiamo di fare una prima delegazione. Quella delegazione va in Pakistan, nei campi profughi dove loro operavano, e la cosa che immediatamente ci ha colpite tutte quante era il fatto che loro stavano facendo un lavoro dal basso straordinario. Avevano le scuole per le donne, dove alle donne non si insegnava soltanto, e tuttora è così, non si insegna soltanto a leggere e scrivere, ma quali sono i tuoi diritti e come rivendicarli. Insegnavano, facevano le scuole per i ragazzi, dove non solo anche lì si insegnava a leggere e scrivere, ma poi teatro, musica, letteratura, eccetera. Un lavoro straordinario con le donne vittime di violenza. Quindi quando i casi non erano risolvibili venivano fatte scappare e nascoste. Sanità, e nel campo profughi che gestiva Rawa, nei pressi di Peshawar, c'erano i ginecologi che davano gli anticoncezionali alle donne, un magazine, loro producevano un magazine di denuncia politica che portavano in Afghanistan sotto il burqa, e quindi loro dicevano: il burqa è un modo per noi, cioè ci fa schifo, però lo usiamo a nostro vantaggio. Passavano, facevano stampare questo magazine in formato minuscolo dalla frontiera, loro con il burqa in testa e i magazine sotto, e andavano a distribuirli dove potevano, nelle città e non solo, anche nelle zone rurali. E quindi loro hanno continuato da allora a fare un lavoro dal basso che avesse come oggetto di difesa, e quindi qua parliamo veramente di autodifesa, le donne, i bambini e la salute. Quindi a me la cosa che ha veramente lasciato colpita, mi ha colpita tantissimo, era il fatto che in un momento in cui in Italia il lavoro dal basso non lo faceva più nessuno, si va in Afghanistan in quella situazione e si trovano delle donne che decidono di fare della loro politica un lavoro dal basso. Io devo dire che ogni volta che ho incontrato delle compagne afghane mi è capitato, poi anche io sono stata in Afghanistan, e quello che mi ha stupito più di tutto è questo coraggio che hanno, cioè che nonostante tutto questa violenza, che comunque magari non è sempre così apparente, però c'è, non è magari guerra a conflitto intenso, perciò comunque ci sono, però lo senti, la vedi, non so, tutta una serie, il contesto è molto, molto, molto, molto difficile, e queste donne con un coraggio straordinario. Io mi ricordo una compagna mi raccontava di come lei dal Pakistan andava durante il periodo più buio dei talebani di nascosto in Afghanistan, in una scuola appunto, per cominciare questo percorso di scolarizzazione delle donne, perché le donne comunque a scuola non ci vanno, cioè la famiglia, i fratelli non le lasciano andare. Sì, è vero, è un'altra cosa straordinaria che hanno fatto, per esempio, perché loro hanno documentato i crimini di guerra dal periodo sovietico fino a oggi e continuano a farlo, era che durante il periodo dei talebani, che portavano, facevano le esecuzioni allo stadio, andarono a filmare l'esecuzione di una donna allo stadio. Quel filmato è stato poi usato da Amnesty International, è stato usato a tutti i livelli, e loro sotto il burqa si mettevano una micro videocamera per filmare queste robe. Immaginate il rischio che correvano facendo queste cose qua, perché voglio dire, se le avessero pescate le facevano secche in 2 secondi. Eppure loro, pur di documentare queste cose, si pigliavano questi rischi e si pigliano tuttora dei grossi rischi. Scusami, volevo solo, come dire, fare una nota, no? Anche un po' autobiografica, nel senso che io l'11 settembre del 2001 avevo 19 anni, tornavo dal G8 di Genova, Enduring Freedom, la retorica di Enduring Freedom, come dire, ha permeato buona parte del movimento, no? Contro la guerra, che poi si è sviluppato in quegli anni. Al netto di questo, questo per dire che me lo ricordo molto bene, no? Però al netto di questo, a me una delle cose che colpisce tantissimo, o che più mi fa riflettere, è un po', come dire, questa retorica, cioè, come dire, sappiamo perfettamente, no, che c'è una retorica colonialista che usa il corpo delle donne, come dire, ai fini del neoliberismo e della guerra, questo, come dire, non è scontato, lo sappiamo, ma sappiamo anche, e ce lo ripetiamo costantemente in queste puntate più sull'internazionalismo, che, come dire, c'è una postura, un po' un filo colonialista anche all'interno di alcuni femminismi, no? Come avessimo da insegnare sempre, no? come si fa la lotta di liberazione delle donne. E invece, come dire, questi racconti sono utili innanzitutto perché, come appunto diceva poco fa Laura, quando nel 99 in Italia il lavoro dal basso, l'autodeterminazione, insomma, erano ancora molto lontane, no? Eravamo ancora molto lontane da questa ondata di femminismo attuale, invece in Afghanistan, come dire, stavano, facevano un lavoro meraviglioso. Quindi, insomma, così a titolo, una delle cose che mi viene prima di tutto da dire, da ricordare sempre, come dire, anche a me stessa, a noi stesse prima di tutto, è che, come dire, è strettamente necessario un lavoro forte del decolonialismo anche all'interno del movimento femminista stesso. Scusate, Marta mi ha levato le parole di bocca e volevo infatti fare una domanda a Laura collegata a questo. In quel periodo e poi anche dopo, ma soprattutto anche in quel periodo dove, l'ha già detto molto bene Marta, non c'era ancora l'ondata che stiamo cavalcando in questo momento, che cosa ti sei, come ha influenzato il tuo approccio anche alla tua attività politica di donna in Italia? Che cosa ti sei portata nel corso del tempo dietro come pratiche? Che cosa ti ha dato? Perché poi appunto l'ottica dello scambio è quella sempre preponderante, no? Che cosa ti sei portata? Che cosa ti ha colpito di più e come ti ha cambiato? Quello che mi ha colpito di più me l'ho in qualche modo detto, poi ovviamente la loro cultura, la loro determinazione ad andare avanti, il loro coraggio e tutte queste cose qua. Chiaramente voglio dire, sei in Italia, io poi diciamo da allora il grosso del mio lavoro politico è stato con loro e per loro, perché poi magari vi dico brevemente quello che facciamo come CISDA con loro da allora sostanzialmente. Però quello che io ho riscontrato e ho capito che sarebbe necessario qua, adesso diciamo che non, io ho un'età e so che in Italia il lavoro dal basso è stato fatto, in Italia i movimenti femministi hanno fatto un lavoro che poi, come dire, in qualche modo si è fermato, in qualche modo non ha raggiunto i risultati forse che si volevano ottenere, ma ha raggiunto un sacco di risultati. Però questo bisogno di fare un lavoro dal basso e quindi di parlare con chiunque e di essere capaci di trasferire un messaggio anche alle persone più umili, perché se voi pensate all'Afghanistan e a quello che diceva Benny prima, cioè lei diceva in Afghanistan solo il 18% delle donne è andato a scuola e voglio dire, quindi vi potete immaginare che tipo di, con che tipo di donne, con che tipo di persone hanno lavorato e continuano a lavorare le donne di Rawa. Quindi hanno trovato anche un linguaggio per parlare con queste persone. Non sono andate a fare la politica e a raccontare le cose così come le scriverebbero per un pubblico, diciamo, tra virgolette, occidentale. Lo hanno fatto pensando al linguaggio che andava usato con loro. E questa è una cosa che qua in Italia, per esempio, ancora non sappiamo fare. E devo dire che questa è diciamo il loro, e vabbè, ovviamente il loro coraggio è un grosso insegnamento, no? Perché tu dici, ma se io mi trovassi, io ci ho pensato mille volte, se io mi trovassi nella loro situazione avrei il coraggio di andare avanti, sì o no? È chiaro che in quella situazione ti ci devi trovare, però insomma un coraggio di quel genere è veramente una cosa straordinaria, insomma. E poi non solo loro, perché vabbè, tra loro, diciamo tra le donne che abbiamo conosciuto c'è Malalai Joya, che è andata alla Loya Jirga, che è una sorta di consiglio dei saggi nazionale, a dire qua ci sono i criminali che devono andare in tribunale, e lo ha detto davanti a quei criminali, cioè gente che veramente non si lascia come dire, impaurire da nulla. E questo credo che sia un insegnamento gigantesco. Che poi anche, se vogliamo, il vero lavoro rivoluzionario è quello di riuscire a cambiare, no? Le condizioni, la società in cui si è, e questo fatto di cominciare a lavorare appunto nella società dal basso è quello che poi porta il vero percorso rivoluzionario, no? Esatto, sono d'accordo. Vogliamo sentire il contributo di Rawa e poi torniamo in diretta con un po' di traduzione e ancora un po' di chiacchiere. Rawa. 40 years ago, Mina and a number of struggler Afghan women concluded that to emancipate Afghan women from oppression, inequality and misogyny, we have to have a revolutionary change. This led to the creation of the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, or Rawa, the first political women's organization in Afghanistan. We believe that only with a deep political, social, cultural, and economic revolution can women attain their rights and equality. We emphasize that without the participation of women from different social strata, especially the lower ones where their rights are trampled more, we cannot be victorious. Rawa has tried to play an active role for this aim in the past 40 years. We have worked to make girls and women literate with courses in schools because that is the first step in giving them consciousness. We published The Women's Message, our publication, so our message could reach women to mobilize them for revolutionary actions. We organized protests with women and raised our voice against fundamentalist misogynists and their imperialist masters. We took big risks to document the crimes of jihadi and Taliban criminals to preserve our painful and important history for future generations. We created income-generating projects for the poorest women of our country who can then change their fate by becoming independent. We have provided urgent aid and healthcare services for the most vulnerable women and children all over Afghanistan. All our activities are in favor of the future, a future where we envision a glorious revolution by the women of Afghanistan, where they will uproot all that causes their misery and suffering and rebuild a free, just, peaceful, democratic and secular society, free from foreign occupation and intervention and domination of their lackeys. Eccoci. Eccoci qua. Diamo una traduzione riassuntiva. Sì, dai, un po' rapida. Cosa ci ha detto sì. Rawa. Dai, sì. La compagna che parla dice che 40 anni fa, insieme a un cospicuo numero di combattenti afghane, si sono ritrovate e hanno convenuto che fosse il caso di iniziare proprio un lavoro di rivoluzione della società per cambiare e stravolgere l'oppressione, l'ineguaglianza e la misoginia che veniva esercitata e che viene esercitata sulle donne. Questo dibattito, questo dialogo ha portato alla formazione di Rawa, che è l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell'Afghanistan. È la prima organizzazione femminile in Afghanistan ed è un'organizzazione che sostiene che solo con una rivoluzione profonda, politica, sociale, culturale ed economica, le donne potranno ottenere una vittoria e uguaglianza. La compagna sottolinea che senza la partecipazione di diverse strati sociali, specialmente donne che provengono dalle classi più basse, una vittoria non si potrebbe raggiungere, quindi il carattere assolutamente interclassista. L'organizzazione ha cercato di svolgere un ruolo attivo con questo obiettivo, si sono fatte molte cose, tra le cose più importanti citava anche Laura prima l'istruzione, quindi corsi nelle scuole, perché appunto è il primo passo per sviluppare una coscienza critica. Hanno pubblicato il loro messaggio, il messaggio delle donne, le loro pubblicazioni per arrivare a più donne possibile, diverse, ma non solo, organizzano anche proteste e non perdono occasione di alzare la voce contro il fondamentalismo misogino e chi lo attua. Diceva anche Laura prima, corrono dei rischi grossissimi, hanno corso e corrono tuttora rischi anche per documentare la storia dell'Afghanistan, documentare i crimini della jihad, dei talebani, documentare i crimini dell'ultima guerra che non si è mai conclusa, e fanno questo lavoro rischioso di documentazione per raccontare, per lasciare un'eredità alle generazioni future. Creano anche progetti, dei progetti che generano reddito per le donne meno abbienti e più povere, per aiutarle a raggiungere un'indipendenza economica. Forniscono anche servizi di pronto soccorso, di emergenza e di cure mediche per le donne più vulnerabili in tutto l'Afghanistan. sottolinea, ci tiene a dire che tutto quello che fanno è proiettato verso il futuro, perché immaginano un futuro rivoluzionario, un futuro dove verranno sradicate le cause della povertà, della sofferenza e di tutte le oppressioni per una società libera, pacifica, secolarizzata e non da ultimo libera da occupazioni straniere e da domini, perché l'Afghanistan, ancora prima dell'invasione sovietica, ha una storia di occupazione secolare, di grande resistenza anche contro il dominio britannico, però questo lo sto aggiungendo io, ovviamente non è una traduzione, però capisco il sottolineare libera da occupazioni straniere. Sì. Io aggiungo una cosa piccolissima, se posso, molto velocemente. Loro hanno anche questa cosa che non badano all'etnia. In Afghanistan l'etnia è stata una discriminante e una ragione per discriminare, e invece loro nelle loro classi, nelle loro orfanotrofi, dovunque, hanno sempre iniziato l'etnia. Siamo tutti afghani. Sentite, vi faccio questa proposta: mettiamo un po' di musica e poi torniamo in diretta, così magari Laura può entrare anche più nel merito, no, dell'esperienza del CISD e delle loro iniziative. Però adesso ce la balliamo un po' anche. Va bene. از زندگی خود چیزی ندیده ای، از ترس مردم و از حرف این و آن صد سیم خوردار دورت کشیده ای. این راه چاره نیست، فکر دوباره کن، هنجار بشکن و افسار پاره کن. من با تو هم بیا با من قدم بزن، دنیای دیگری با من رقم بزن، با من بیرون بزن تا زندگی کنیم، شب بین کوچه ها خوانندگی کنیم. Eccoci, ancora in diretta. Allora, niente, dicevamo che è giunto il momento appunto di chiedere a Laura magari di raccontarci un pochino sia delle sue esperienze dirette in Afghanistan, sia del lavoro che svolge il CISDA, no? Sia in Afghanistan, sia in Italia, a supporto delle donne. Allora, sì, noi appunto il CISDA come CISDA nasce nel 2004, però insomma dal 99 si forma un gruppo di donne, cioè dopo la prima delegazione andiamo in giro per mezza Italia a raccontare, a fare un po' i testimoni di quello che avevamo visto durante la delegazione e si forma un gruppo di donne che decide, come dire, di andare avanti insieme, di lavorare, come dire, per far continuare a tenere alta l'attenzione sulla questione. Quello che noi facciamo oggi, allora aggiungo una roba, oggi in Afghanistan la situazione è ancora pessima, quindi diciamo non è che è fatta una scuola, una classe di alfabetizzazione per le donne, un vocational training course, è tutto risolto, perché purtroppo lì è continuamente necessario mandare avanti delle cose. Per cui noi ci siamo basate sulle loro richieste, abbiamo capito insieme a loro che per loro fare il loro lavoro dal basso voleva dire anche attivare dei progetti anche non necessariamente di rawa, ma di persone di cui loro si fidavano. E quindi via via noi abbiamo cominciato a, come dire, cercare finanziamenti, per i loro progetti, che sono case delle donne maltrattate, a Kabul e non solo, che sono orfanotrofi e quindi posti dove i bambini non so, vengono portati all'università, imparano a leggere la musica e a fare musica, le ragazze hanno la squadra di pallone, cioè cose un po' speciali che aiutino, fatte per far sì che chi va in contatto, chi entra, chi lavora con loro diventi una classe dirigente capace di sguardo critico e capace di essere veramente una guida. Poi non lo so, i progetti con le donne vicino a Herat che coltivano lo zafferano e noi cerchiamo di venderglielo, i progetti di ospedali nelle zone di Farah dove appunto loro sono ancora, soprattutto nelle zone rurali dove riescono a intervenire, sono gli unici, le uniche a portare una forma di sanità, diciamo, e questa è stata l'altra loro, un'altra cosa che per loro è stata molto importante, portare aiuto sanitario a chi ne avesse bisogno. E quindi appunto grosso lavoro per sostenere i loro progetti, che sono tantissimi, invitate qui almeno una volta all'anno e cercando di organizzare dei tour per loro, sia a livello di movimenti, di donne, eccetera, ma anche un po' a livello istituzionale, perché in qualche caso era necessario per loro far sentire la loro voce anche a livello istituzionale, quindi cercare nel Parlamento, nei consigli comunali, nei consigli regionali, persone che avessero voglia di aprire le orecchie rispetto a ciò che loro volevano raccontare, perché la storia degli ultimi 20 anni è stata raccontata in tutt'altro modo di come è andata, quindi per loro era fondamentale, far sapere qual era la verità rispetto a quella situazione. E quindi diciamo, e poi l'organizzazione di delegazioni che sono state per noi una grossa chiave per avvicinare delle persone a noi e soprattutto a loro. E quindi l'organizzazione di delegazioni 1 o 2 volte l'anno è stata molto utile, perché siamo riuscite a, come dire, a far avvicinare moltissime persone, moltissime, tutte quelle che abbiamo potuto, insomma, a quella realtà e a far capire in che condizioni lavorano e a far capire qual è la situazione del paese. Quindi più o meno questo è il lavoro che facciamo da 20 anni. Senti, io invece avevo una curiosità, no? Appunto tu parlavi di queste delegazioni e tu hai detto prima, oppure a me, non mi ricordo bene, che la prima volta che tu sei andata in Afghanistan è stato il 99 e sei tornata poi ovviamente negli anni, l'ultima volta l'anno scorso. Io volevo dire 2001 la prima volta. nel 2001, insomma, appunto volevo chiederti come è cambiato il paese, come hai visto il paese cambiare, che cosa c'è in questi anni. Sono tanti poi, no? Allora, la prima volta che siamo andati in Pakistan nei campi profughi. Gli americani stavano per attaccare ed era proibitivo entrare. Però siamo entrati nel 2002 a marzo, per l'8 marzo, eravamo in tre, un gruppo era rimasto in Pakistan e un gruppo era riuscito, insomma, con un volo, non vi sto a dire quale, eccetera, a entrare in Afghanistan, a farsi appoggiare da dei giornalisti italiani e quindi andare a incontrare le nostre donne che comunque non hanno mai smesso di stare in Afghanistan. Questo, cioè, loro durante il periodo dei talebani e durante la guerra civile che ha preceduto il periodo dei talebani hanno sempre lavorato un po' nei campi profughi, ma sempre e comunque in Afghanistan. All'inizio, nel 2002, la prima volta che siamo andati era molto scioccante vedere persone che ti guardano come un marziano, vedere una città completamente distrutta. A Kabul, durante la guerra civile, sono state uccise 65.000 persone. Sono entrati, si sono fatti la guerra, le bande di signori di questi fondamentalisti per 4 anni e hanno veramente ridotto la città in macerie, fogne a cielo aperto, polvere, strade coi buchi, case sventrate. Questa era, profughi dappertutto, miseria assoluta, questa era la situazione. Chiaramente l'Occidente ha dovuto far vedere che qualcosa succedeva. Però che cosa è successo? Che tu oggi, allora facciamo un salto subito per non farla lunghissima, no? Se tu oggi vai a Kabul, qualche strada c'è tanta polvere, insomma c'è qualche strada, vedi questi palazzi scintillanti, un po' polverosi, ma comunque capisci acciaio e vetro, così vedi queste case barocchissime, fatte di vetri, di cancelli, di ori, di argenti. Allora, tutta questa ricchezza, intanto viene, delle case, sono quelle dei signori della guerra che in questi anni si sono arricchiti enormemente perché sono stati pagati lautamente, armati fino ai denti da noi altri, dall'Occidente. E in più la corruzione, perché mi sono piovuti milioni e milioni di dollari per i progetti, per le cose, per mettere in piedi il governo, per mettere in piedi la giustizia. Noi italiani abbiamo messo milioni di euro sulla giustizia, che non, giusto per, come dire, costruire qualche tribunale, ma poi dietro zero. E quindi, come dire, apparentemente uno dopo un po' di anni poteva dire: ah, però qua non c'è più la stessa miseria che c'era prima. Però di fatto la miseria c'è ancora, tutta e anche molto peggio di prima, se vogliamo, Si è solo no? allargata la forbice. Non c'è redistribuzione, non c'è stata redistribuzione pratica delle ricchezze, è andata solo in alcuni canali. Ma non solo, hanno aperto centinaia di ONG, gli stessi signori della guerra, per ragare soldi. A un certo punto il governo emana questa cosa e dice: tutti i progetti delle ONG devono passare per il governo. Cosa voleva dire? Che tu, se facevi un progetto con, ipotesi, l'Unione Europea, dovevi andare a dire al governo, al ministero di riferimento. Facciamo l'esempio del Ministero delle Donne, che tu aprivi un progetto, eccetera, e loro chiedevano quattrini su quel progetto, quand'anche non volevano essere loro a gestirlo direttamente. Allora, abbiamo visto scuole costruite e vuote, senza insegnanti e senza studenti, abbiamo visto di tutto e di più. Insomma, i soldi della cosiddetta ricostruzione sono stati usati, sono stati, come dire, rubati dalla corruzione. L'Afghanistan è il secondo paese più corrotto al mondo, andate a vedere le classifiche, sono stati usati dai signori della guerra per alimentare le loro milizie che ancora ci sono, e le loro famiglie e il loro benessere, diciamo così. Alle persone è arrivato veramente nulla, e quindi voglio dire, purtroppo c'è una grossa discrepanza tra ciò che vedi, e quindi se ti devo dire quello che ho visto è: siamo passati dal fango e dalla merda che scorre nelle strade a una roba che sembra meno incivile, non dappertutto naturalmente. Se poi vai a scavare dentro a quello che è successo veramente, ti accorgi che per gli afghani non è cambiato niente, oltre che, come diceva bene Ila di Rawa, per le donne non è cambiato niente, cioè le donne sono sempre le vittime di questa situazione, e picchiate, menate in famiglia, e insomma brutalizzate da una società così dura come quella afghana. Questa cosa che stai dicendo mi impressiona molto, perché insomma io credo di avere abbastanza esperienza in posti, diversi posti del mondo, e devo dire che l'Afghanistan mi ha molto colpito, non tanto Kabul, che vabbè, l'unica strada, cioè ci sono quattro strade strade normali, e il resto, cioè praticamente sono strade sterrate. E quando vai fuori da Kabul, noi siamo stati a Jalalabad, siamo andati a Bamyan e tutta quella zona lì, devo dire che la povertà e le condizioni igienico-sanitarie sono davvero scioccanti in alcuni punti. Non c'è niente, non c'è acqua, non c'è luce, non c'è elettricità, non c'è niente. Tra l'altro, voglio dire, se tu, non so se ti hanno portato quando sei andata a Kabul nei campi profughi che ci sono ancora lì, e io ho delle foto che fanno rabbrividire, insomma, perché niente bagni, niente fogne, niente di niente, tende sdrucite. Cioè ci sono ancora migliaia di persone nella città, perché poi in tantissimi si sono riversati nella città, nella capitale, ma non solo, nelle città, in cerca di qualche cosa, perché qua dopo i talebani tanti sono stati anche costretti a rientrare dal Pakistan, e come dire, trovavano i loro villaggi distrutti eccetera, allora per portarsi a casa qualche soldino andavano a cercare fortuna nelle città, e nelle città sono finiti in campi profughi, dove adesso il grosso dei giovani sono tossicodipendenti. Quello è un altro problema gigantesco, perché l'Afghanistan produce il 93% dell'eroina mondiale, e quindi voglio dire, e la raffina, insomma, prima facevano solo l'oppio, adesso la raffinano, e quindi questa è un'altra piaga pazzesca che chi colpisce sempre più i poveri cristi, insomma, quindi anche quella è un'altra situazione, cioè diciamo che di nodi ce ne sono milioni, e purtroppo non è facile affrontarli tutti, e la lotta per le nostre compagne è durissima. C'è una cosa che esula un po' dagli ultimi aspetti che condividevi, che comunque sono importantissimi. Una frase che hai detto è la situazione non è sicuramente cambiata per le donne, eccetera. Questo mi ha... cioè, la domanda che volevo farti è, da quando tu hai incontrato questo contesto a oggi, insomma, l'agibilità della lotta di queste donne, il raggiungere qualcosa oppure fare dei passi indietro, non è proprio cambiato niente? Allora, diciamo così che per esempio Rawa di per sé, prima dicevo che Rawa è clandestina, quindi Rawa ha dovuto trovare per autodifesa dei modi per poter veicolare i suoi contenuti. Quindi per dire, i primi anni che noi andavamo là, 2003, 2004, 2005, bla bla bla, loro fino a un certo punto sono riusciti a fare un 8 marzo pubblico, diciamo così, organizzavano loro come Rawa un evento, no? Per l'8 marzo, e quindi loro erano riuscite in qualche modo a incunearsi, ad aprirsi come Rawa una delle piccole finestre che poi richiudevano immediatamente. E invece a un certo punto per loro non è stato più possibile farlo. Quindi cercano di far sì che l'8 marzo venga celebrato con i contenuti che loro pensano in altro modo. Quindi diciamo loro hanno, e poi ovviamente insieme a loro e nel lavoro di tutti questi anni, molte donne sono cresciute. Adesso vi faccio l'esempio piccolino delle donne che stanno lavorando nel campo di Zafferano, che hanno cominciato a fare lo Zafferano, hanno cominciato a fare scuola e si stanno emancipando nella loro famiglia e vogliono aprire altre cooperative di donne. Diciamo questo loro lavoro contamina, e quindi qualche patto si fa, però in una devastazione del genere e con tutto l'Occidente che guarda all'Afghanistan, perché voglio dire, perché l'Afghanistan, no? Non c'è il petrolio, che cazzo ci facciamo in Afghanistan? In Afghanistan ci siamo perché l'Afghanistan è un crocevia dell'Asia centrale e del Medio Oriente. Quindi l'Afghanistan confina con l'Iran, confina con il Pakistan, confina con la Cina, cioè tutti hanno, è da sempre così. E quindi purtroppo lì è molto difficile sconfiggere il nemico, perché il nemico non è uno, sono tantissimi. Sentite, mi tocca richiamarvi all'ordine, perché poi solo tra un quarto d'ora mi scappate tutte. Allora, vi propongo un pochino di musica e poi torniamo in diretta per, come dire, per dare ancora un po' spazio e voce alle donne dell'Afghanistan e alle loro lotte. بخوان بلند بلند برا برا برا برا بری قیام شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بده نفس بگیر هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا به جنگ نه نیمه و نه ناقصی برابری تو بیشتری از سنگهایی که به سوی تو زدن کوهی بساز برو به اوج قل یک کوه به جنگ به جنگ به جنگ زدند و گفتند مقدسی در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی اول برون از سکوت مالک جسم خیش شو سپس رها روح از این بند شو به پیش شو بیا کنار هم برای هم برابری شویم باعث و بانی عدالت سراسری شویم اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود شاید جهان بهتر شود Eccoci per gli ultimi minuti della diretta. Allora, abbiamo un altro audio, un altro contributo di Salai Ghaffar. Salai Ghaffar, per chi non la conoscesse, è la portavoce di Ambastaghi, il partito della solidarietà dell'Afghanistan, che appunto a cui abbiamo chiesto un contributo perché, insomma, non so, la conosco abbastanza bene, è diventata una cara amica ed è una persona, insomma, meravigliosa, no Laura? È assolutamente una persona meravigliosa. Assolutamente meravigliosa e che sicuramente, insomma, che ha lottato tanto nella sua vita, è anche protagonista adesso un po' del film I Am the Revolution, una delle tre, e ci ha mandato questo contributo che volevamo ascoltare tutto insieme. Sì, lo mando e poi torniamo in diretta. Women of Afghanistan are witnessing a miserable lives on daily basis. They are suffering from extreme patriarchy and misogyny, various terrors of occupation and Islamic fundamentalism of all brands, poverty and adversity, killing and bloodshed. The ear and throat of the unfortunate women of our homeland are slit and they are subjected to rape and sexual violence. They are stoned and burned. They commit suicide and self-immolation to get rid of these miseries and tens of other oppressions. And you know that an arrangement is going on that the United States in a new deal decorate the brutal and the most misogynist Taliban and make them wear suit and force them on our people and the ironic guise of peace. We, the women of Afghanistan, will never forget their crimes and we will never forgive them, only if it will be because of execution of Zarmina, beheaded of Tabassum, and brutal killing of Rukhsana. We know that women can only break the chains of barbarism, ignorance, shackles of enslavement, and end of discrimination, injustice, and inequality with their hands through their unity in the light of progressive ideas. Eccoci. Allora, appunto, dicevamo, abbiamo sentito le parole di Salai. Vogliamo fare una micro traduzione di quello che diceva. Ma sì, sostanzialmente Salai ci dice che le donne afghane tutti i giorni nella quotidianità sopravvivono a una vita di oppressione, sono soggette al patriarcato, alla misoginia, c'è questa forte presenza fondamentalista islamica in tutti i campi della vita, questo produce povertà, avversità, uccisioni, spargimenti di sangue. E le donne sono quelle che pagano come sempre poi in tutti i contesti un prezzo maggiore in termini di stupri, violenze sessuali, le donne vengono lapidate e bruciate, ci sono anche molti suicidi o autopunizioni, automiliazioni per alcune di loro rimangono gli unici modi per disfarsi delle brutalità e di queste decine di oppressioni. Salai ricorda che Stati Uniti e talebani comunque stanno continuando, stanno stringendo accordi e patti, che quelli che venivano chiamati, cioè i talebani da parte degli Stati Uniti, misogini e brutali, ora vengono incontrati in sedie con le veste ufficiali e abilitano anche questi gruppi contro cui prima avevano scatenato una guerra, abilitano e rafforzano il loro potere sulla popolazione. Se la ricorda che loro, come donne dell'Afghanistan, non dimenticheranno mai invece i crimini provenienti da tutte queste parti, non perdoneranno mai, anche solo forse per ricordare le compagne e le sorelle che sono state uccise, tra cui Zelmina e Roshana. Selai dice che solo le donne possono rompere queste catene di barbarie, di ignoranza, le catene della schiavitù, della discriminazione e dell'ingiustizia. E lo possono fare appunto tenendosi metaforicamente, dice, tenendosi per mano e continuando nella strada della luce, delle idee e del progresso. Tra l'altro concordo su quello che dicevano anche sì, Selai, Benny e Laura. Io Selai non la conosco personalmente, ma ho avuto modo di incontrarla a Francoforte e poi anche quando c'è stata la presentazione del film di Benedetta. Devo dire che quello che trasmette, la forza, la determinazione e la serietà con cui porta avanti una lotta così difficile, così rischiosa, è un grosso esempio. È un esempio che dovremmo prendere tutte, perché spesso la serietà, la costanza, l'organizzazione sono delle cose che nella frenesia in cui siamo ributtate tralasciamo, no? E forse è per questo che poi il lavoro dal basso funziona. Che portano avanti sia lei con il partito che le donne di Rawa funziona in certi contesti. Sai, una cosa che a me fa sempre riflettere, anche di Salai, oltre alla verità, è comunque il sacrificio, no? Lei parla molto e mi ha parlato molto, ma non solo lei, molte compagne rivoluzionarie, devo dire, mi hanno parlato molto del sacrificio, che comunque va di pari passo. Ci sono tante cose come testimoniano appunto le donne di Rawa, il fatto di vivere in clandestinità, di non poter avere una vita, proprio perché per paura, no? Che la violenza possa ricadere sui propri cari, sui propri affetti, eccetera. A me ha sempre trasmesso una grandissima forza e coraggio. Sì, guarda, ci stavo pensando anch'io poco fa, no? Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Selai l'anno scorso in Italia, grazie a Benedetta, grazie a Laura, grazie al lavoro del CISDA. Ad esempio mi viene in mente, no? La presentazione che abbiamo fatto con lei a Piano Terra prima dell'8 marzo. E, è vero assolutamente tutto quello che dicevate. A me ad esempio una delle cose che mi è rimasta tantissimo di Selai è, non so, penso ad esempio alla serata di Piano Terra o le serate che abbiamo passato con lei, come dire, da un lato la assoluta, come diceva anche Vale, no? Il coraggio, la forza, anche la serenità di questa donna, d'altro lato il contrasto fortissimo con le immagini, anche con le sue immagini, no? Che ci ha fatto vedere delle azioni che fanno in Afghanistan, no? La percepivi da quei video, l'ansia, la paura e, come dire, la reale estrema pericolosità di quello che stavano facendo. E d'altro lato, Benny, quando dicevi il sacrificio, mi viene in mente, perché in questo momento non so se lo sentite, ma c'è mio figlio che scorrazza qua in giro, no? E ricordo perfettamente Selai che gli ha detto, ho un bambino della tua età. Parlando con un bambino di 8 anni, che, come dire, mi colpisce sempre perché magari non capisce l'inglese, ma capisce quando le cose sono importanti, le percepisce, raccontava proprio questo sacrificio, no? Che passa anche, ad esempio, attraverso la rinuncia delle persone alle persone che ami, come può essere tuo figlio, può essere il tuo compagno o la tua compagna, anche per la loro tutela, no? Per la tutela della loro sicurezza prima ancora che della tua. E, come dire, questo è estremamente potente. Sì, decisamente. Questa è cercavo di trasmettervi prima un po' questa cosa. Aggiungo però che se lei e moltissime di queste donne, ma lei è una persona particolare, è di un'ironia feroce. E quindi con lei, cioè, spesso ci si ritrova a fare delle grandissime risate. E poi pensi a lei, alla vita che fa, al contesto in cui vive, dici, mamma mia, no? Questa riesce a essere così nonostante tutto. E forse è proprio così che bisogna essere, perché altrimenti non ce la fai. Sì, è pazzesco, no? Era quello che dicevo prima, questo contrasto tra averla con te, no? Magari uscirci a cena, come abbiamo fatto in quelle sere in cui era in Italia, come dire, in situazioni di, passatemi il termine, forse improprio, ma di normalità, no? E il suo essere, come dicevi tu, estremamente tagliente, sul pezzo, cioè, no? E poi però immaginarla in questo contesto, per noi così così lontano e impressionante, no? E la forza di tenere insieme queste due cose. Sì, assolutamente. Va bene, sentite, sono le 20:14. Io so che Laura tra un minuto ha un impegno e ben neanche, forse. Per cui. Aggiungo solo una cosa piccolissima, chi è curioso di sapere quello che fa il CISDA è un sito internet, basta digitare CISDA e potete andare a vedere un po' quello che facciamo. Grazie. Grazie a voi, grazie davvero per l'invito. Grazie. Va bene, allora noi per questa sera ci salutiamo e grazie ancora Laura, grazie a Benny, grazie a Vale, grazie a Nonnuna di meno, vabbè, il momento del grazie. E questa sera, voi sapete, è tradizione per noi, dopo la diretta, lasciarvi un'oretta di musica, regalarvi un'oretta di musica. Questa sera vi beccate, lo dicevo prima fuori onda, un improbabile accrocchio di buona parte dei pezzi che un po' pop, un po' punk, un po' trap, un po' reggaeton che abbiamo mandato nel corso di questi 2 mesi di dirette. E torniamo lunedì con la prossima puntata e basta. Vi ricordo solo ancora una volta che le puntate della radio sono scaricabili in posta, vabbè, in podcast dal blog di Non Una di Meno Milano. E basta. Ciao ragazze, grazie mille. Grazie a tutti e a tutte e a presto. A presto. Grazie, ciao, a presto. Ciao. Ciao. Hello papi, mais qui bazar. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya yeah, air. Crache encore, ya yeah, air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. Je suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Je suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, je suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais, en katana, baby, tu dettes ça. On got on a baby. Oh, cha cha. Oh, cha cha. Oh, cha cha. Madonna, che schifo che ho fatto, Madonna. Ah, vabbè. Mi sono svegliata con un mal di testa, Madonna, che festa. Peccato che il pirla mi ha detto di tornare a dormire a casa mia, che tristezza, non capivo un cazzo. Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta, ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10.

cervello. Enjoyed your birthday either. Hashtag no. Long, hashtag sad penis. No more dick pics. Dick pics. Dick pics. Take your dick off my shit. I look like your cocktail sausage. I've been a veggie all my life. Your bitch is making me go vegan. Does that micro dick please your twice? What colour it is, its length, its girth, if it's hard or flaccid. Don't get me wrong, dicks are great, but not unwanted dick pics. If I didn't ask for a dick pic, I didn't want a dick pic. Don't shove your stranger dick in my face on Tinder. Don't shove your stranger dick in my face on Instagram. And Alex, don't fucking Snapchat me again. Thank you. generation made me. You can tell from the state of my room that they let me out too soon, and the pills that I ate came a couple weeks too late. I've got some issues to work through. There I go again, pretending to be you, make believing that I have a soul beneath the surface, trying to convince you it was accidentally on purpose. Is a plagiarism. I might join your century, but only on a rare occasion. I was taken up in for the labor pains and did. And now the hell the world was accident. I had the girl anachronism. You can tell by the red in my eyes, and the bruises on my thighs, and the knots in my hair. Encourages her. And you can tell from the full body cast that you're sorry that you asked, that you did everything you could like any decent person would. But I might be catching, so don't touch. Don't believe in you're immune to gravity and stuff. Don't get me wet because the bandages will all come off. You can tell from the smell at the state that the current state is critical. Is the little thing slime sense? The time it takes to break it, she could make up 10 excuses. Excuse her for the day, it's just the way the medication makes her. I don't necessarily believe there is a cure for this, so I might join your century, but only as a doubtful guess. I was too precarious, removed as necessary. You don't have to worry. Spaccare, finire sulle riviste, yeah. Nata per fare successo fuori dall'ombra, nata per fare del sesso dopo una bomba. Uno per il plus, due per il kush, araba con gli occhi verdi, odore di fumo e baba ganoush. Non andavo mai a scuola, oh, yeah. Sognavo già i fogli viola, oh. Volo come un piper fuori per il lusso, società tua. Blu, te lo fanno salire su, paste rosse, colore.

and the darkness has vanity set in submission. I can feel my body resign from a fight that's been within us the whole all time. I recoil in reaction to the pocket of a girl who was seriously rethinking her approach. Maybe we'll survive this apocalypse of violence and live among the roaches and the dirt. Black earth, black earth, before it gets better surely getting worse. Black earth, black earth, you need greed manipulation, it's a curse. There have to be more men and women involved to keep this afloat. We need a resurgence of awareness of how a word and language perpetuate violence against women of this world. What do we leave behind? What do we hope to find when we allow each other to be examples of wisdom instead of following the ignorant down to their feet? Black earth, black earth, before it gets better, it's surely getting worse. Black earth, black earth, you need greed manipulation, it's a curse. Can't be changed. Ever thought what is all that remains? I say absolutely not. Let's give it a shot with love solidarity. I said absolutely not. Let's give it a shot with love solidarity. Black earth, black earth, before it gets better it's surely getting worse. Black earth, black earth, you need a green manipulation, it's a curse. Black earth, black earth, before it gets better it's sure to get worse. Black earth, black earth, you need a green manipulation, it's a curse. Black earth. Okay, sorry. Okay, we're starting now. We're Bikini Kill and we want revolution. Girls don't know.

ma liberté. A rang du vert, les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, fume depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile. Soy la cenicienta y he colgado la mopa. A las 12 no me acuestas, me voy a pillar farlopa. Soy la sirenita, soy mitad sardina. Yo no quería piernas, yo quería una vagina. Soy bella durmiente y estoy tumbadita. Tráeme skin que me despierte, que me estoy quedando frita. Yo soy Blancanieves, he matado a los enanos. Los fusilo, me los como y los cago por el ano. No somos princesas ni suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos tiramos. No somos princesas y sobre la corona, la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas, acabaremos presas o en una fiesta gitana. Soy la princesa bella y he quemado el castillo y me piro para la polo que me está dando el monillo. Yo soy Jasmine y he vendido la alfombra y he quedado con el genio para tomarme un sol y sombra. Yo soy Alicia, mira qué maravilla, quítame ese té con pastas, dame un plato de morcilla. Soy Elsa de Frozen, la princesa congelada, tengo frío, los pezones son mi arma para matar. No somos princesas ni suspiramos, verás tú qué sorpresa que esta noche nos piramos. No somos princesas y sobre la corona, la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas, acabaremos presas o en una fiesta gitana. Ya está el mismo coño de la canción que habéis tocado. Ay, os voy a poner la nueva. A mí no me gusta el punky. Estoy aquí porque me caéis bien. La puta canción está tan puesta. Nada índigo. Yo te aviso, me gusta sin compromiso. Con trenza o con pelo liso. Peligroso tu sumiso. Sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Veo lo que tú tienes, no soy quien te conviene. Sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te escapaste. Corta miradita larga.

toda su fuerza lo tenemos estudiado pa' que os estalle en la cabeza. Ya hace rato que os pasamos por la izquierda y cuando vais, nosotras ya hemos dado mil vueltas. Esos tipos duros quieren saber el truco, la fórmula secreta de la esencia de mi grupo. Estando con las compas, nos sale todo al compás, partiendo el gremio que más somos comando. Van rabiando que estemos pegas, que este tema se baile. Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy. Tú no eres mi papi, yo en la música tu mami. Nos pinchan en el party, nos cantan en la mani. Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar. Y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras. Es bullshit, aquí estamos working. En el cuello la cadenita de golf. Y si duele, que huele bien fuerte, mi gente. Que pase la vida, compañera mía. Empezamos porque otra resistía. Mira, ya tenemos el acuerdo, así dos equipivas prima. A golpe de historia, cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso, las lobas venimos gigantes. Ante esa tu inmensidad dormida, ves alerta o despertarás en la caída. Con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte hoy, te espero frente al mar. Quedamos silenciosas. No nos visteis venir, llorar rompiendo escenarios. Toda la pista pa' mí, cuidarnos es nuestro código. Estado líquido, sólido, ese rollo machirulo no lo compro. Otro grupo de tíos con guitarra. Aporta o aparta, cariño, ya lo dijo la vasallo. Lo petardo no nos quita lo político. Pa' que se entienda, os metimos un golito. Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar. Y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras. Tú no eres mi